Ad alta voce. Le Metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro nono, versi 101-453. Per giustificare uno dei suoi due corni spezzato, il fiume Acheloo ha raccontato a Teseo la rissa ingaggiata con Ercole per ottenere la bellissima Deianira. Poco male, commenta Ovidio, visto che la mutilazione si può schermare con una cuffia di canne. A te, invece, bestia d'un nesso, l'amore di quella ragazza è costato la vita, trafitto da una freccia in mezzo alla schiena. Di ritorno verso le mura della patria con l'ultima sposa, il figlio di Giove è arrivato alle rapide dell'Eveno. Cresciuto per gli acquazzoni dell'inverno, il fiume era gonfio più del solito, costellato di vortici, non transitabile. Ercole si preoccupa non certo per sé, per sua moglie. È allora che Nesso lo aborda, poderoso, esperto di guadi. A portarla sull'altra sponda, garantisce, ci penso io. Tu, con tutti quei muscoli, puoi passare benissimo a nuoto. Pallida dalla paura del fiume, non più che di Nesso, a Nesso, l'eroe di Beozia, affida la sposa che trema. Indi, con tanto di pelle di leone e faretra addosso, la clava e l'arco li ha già balestrati sull'altra sponda, fa: visto che devo battermi coi fiumi, ora vinco anche questo. Poche storie. Non si occupa affatto di dove sia meno mossa l'acqua o di assecondare il verso della corrente. Già sull'altra sponda fa tanto di raccogliere l'arco che sente la sua donna che grida e vede Nesso che fa per svignarsela col pegno in ostaggio. «Ma dove conti di andare?» gli urla. «Su quelle quattro zampe! Dico a te, mascalzone, bestiaccia biforme, sei sordo? Non mettere le mani su quello che è mio! E se non ti frena il rispetto che mi dovresti, da un coito vietato dovrebbe distoglierti tuo padre appeso alla ruota, non mi scappi! Fidati pure delle tue risorse equine!» Non ti raggiungo a piedi, con un tiro, vedrai, ti raggiungo. Detto fatto, scocca una freccia che trapassa la schiena al fuggiasco. Con la punta uncinata il ferro risbuca dal petto e quando lui cerca strapparselo, sbocca dalle due asole un fiotto di sangue misto al pus velenoso dell'idra di Lerna. Borbottando fra sé, morrò. Ma morrò vendicato. Nesso inzuppa in quel sangue bollente la propria camicia e alla donna rapita la dona, spacciandola per un ottimo stimolo erotico. Passa un bel tratto di tempo e le gesta di Ercole il Grande hanno riempito il mondo e sedato l'odio della matrigna. Tornato vincitore da Ecalia, si accinge a sciogliere i voti a Giove, però, precorrendolo, è giunta al tuo orecchio Deianira, la fama. Fama che gode se mescola il vero col falso, se a forza di chiacchiere si dilata dal nulla e ti sta raccontando che l'anfitrioniade è pazzo di Iole. Tu lo ami e ci credi. Allarmata dalla storia del nuovo amore, comincia che si abbandona alle lacrime e, singhiozzando la poverina, divulga il proprio dolore. Ma presto, che piango a fare, si dice, per fare un piacere all'amante? Che si farà viva? No, debbo inventarmi qualcosa finché sono in tempo e lei non mi s'è ancora insediata nel letto. Faccio una scena o sto zitta? Me ne torno a casa o rimango? Lascio il campo o se non trovo di meglio la prendo di petto? E se, ricordandomi invece che son tua sorella, studiassi Meleagro un delitto e a testimoniare di cosa è capace lo strazio di donna umiliata, sgozzassi quella puttana. E sbanda da un progetto all'altro, finché non opta fra tutti proprio per quello di spedire al suo uomo la tunica imbevuta del sangue di Nesso, che riattizzi un amore un po' spento. Di persona consegna all'ignaro Lica, ignara del lutto che le sarebbe costato, poverina, il dono, perché sia tanto gentile da consegnarlo al marito in persona, che ignaro a sua volta indossa il veleno dell'idra di Lerna. Lui è lì che prega e che sparge incenso sui fuochi incipienti e da una coppa versa vino sui marmi dell'ara, quando, rinfocolato dal fuoco, il veleno sprigiona la sua furia e scola sul corpo di Ercole quanto è grande. Finché può, reprime i gemiti con l'eroismo di sempre, ma quando i tormenti si rendono insopportabili, molla gli altari e riempie di urla le grandi foreste dell'Eta. E cerca, altro che se non cerca, di cavarsi l'atroce camicia, ma dove lui strappa, lei strappa la pelle, o resta incollata al corpo, per quanto lui tiri, o, sbrindellandolo vivo, finisce per mettere a nudo le sue ossa enormi. Che orrore! Il sangue stesso gli sfrigola soffriggendo veleno, come una lama rovente immersa nell'acqua gelata. E non è finito. Ingorde le fiamme gli succhiano i visceri. Da tutto il corpo gli sgronda un sudore bluastro. Stirati dal caldo gli schioccano i tendini. Un cancro occulto gli squaglia il midollo. Allora, levando le mani alle stelle, prorompe: «Gustati il nostro supplizio, Saturnia! D'accordo, gustatelo!» E contemplando dall'alto questo scempio, sazia il tuo cuore efferato, efferata che sei. Oh, se anche un nemico, io cioè, può farti pietà, questa vita insopportabile, sfatta dai tormenti, concessami solo per faticare, riprenditela. Sarà un premio la morte per me, il regalo della matrigna. L'ho ben abbattuto io, Busiride, il quale imbrattava i templi di sangue straniero, e ho privato il terribile Anteo delle forze che gli riforniva sua madre, senza tremare del pastore Gerione, né Cerbero delle tue tre teste, o mi sbaglio? Siete state voi, mani, o mi sbaglio, a atterrare le corna del toro, voi a segnalarvi nell'Elide, nella palude Stinfalia, nel bosco Partenio, o no? Non è stato il vostro valore a conquistare il Balteo del Termodonte, istoriato in oro e i pomi in custodia al drago, che occhio non chiude? Non mi hanno tenuto testa i centauri, e nemmeno il cinghiale che devastava l'Arcadia, e all'idra mica è servito ricrescere per difetto, raddoppiando invano le forze. Che dire poi dei cavalli che Diomede di Tracia ingrassava con carne umana? Che dire delle greppie stipate di corpi a brandelli e di me che ho spazzato via le bestie e il padrone? Queste braccia, il leone gigante di Nemea, non l'han soffocato, non mi sono accollato il cielo. La moglie tremenda di Giove si è stancata di darmi degli ordini prima che io di eseguirli. Ma adesso mi arriva addosso un flagello cui non resistono né valore né armi di sorta. Un fuoco mi circola in fondo ai polmoni e tutto divora quello che trova nel corpo. Euristeo però se la spassa, ma chi vuoi che prenda ancora sul serio gli dèi? Detto questo, si trascina sui giochi dell'Eta, ferito al modo del toro con uno spiedo piantato in corpo da un cacciatore che poi si è levato di torno. Lo sentivi che rantolava, lo vedevi rabbrividire e tentar di strapparsi quella camicia di dosso, schiantare tronchi e sfogare la collera contro i macigni e tendere, lo vedevi, le braccia al cielo paterno. Quando ecco, in una fessura della roccia, scorge il buon Lica che trepida e come il dolore gli convoglia la rabbia, urla: «Non me l'hai portato tu, questo dono letale, Lica? Vuoi essere stato tu a uccidermi?» Quello tremante, bianco come uno straccio, tenta parole di scusa e farfugliando vorrebbe abbracciargli i ginocchi. Quando l'alcide lo abbranca, lo fa ruotare 3-4 volte e lo catapulta nel mare dell'isola Eubea. E lui, volando lassù per aria, si irrigidisce, come la pioggia condensa al soffio di venti gelati e neve diventa, e i fiocchi di neve che morbidi scendono mulinando, rapprendono in chicchi di grandine, proprio così a quanto si favoleggia, scagliato nel vuoto da braccia erculee, senza una goccia in corpo di sangue o di umore per la paura, Lica è diventato di sasso. Oggi ancora al largo dell'isola Eubea si sporge sull'acqua un piccolo scoglio che evoca la forma di un uomo, tanto che i marinai non gli passano sopra per evitare di fargli del male, e lo chiamano Lica. E tu, inclita prole di Giove, una volta ammucchiati i tronchi che rivestivano la dorsale del monte Eta, disponi che Filottete si prenda l'arco e la enorme faretra e le frecce che un giorno rivedranno il regno di Troia, purché provveda ad accendere il fuoco sotto la pira, e mentre ingorde le fiamme la avviluppano, con la pelle del leone Nemeo la ricopri e ti ci stendi sopra, la testa appoggiata alla clava, con l'identica faccia che faresti sdraiato a banchetto tra coppe stracolme di vino incoronato di fiori. E già la fiamma, sempre più viva, sempre più larga, schiocca lambendo il corpo tranquillo di chi non ha più paura di nulla. Gli dèi sono in ansia per il salvatore del mondo. Giove Saturnio se ne accorge e, soddisfatto, li interpella: «La vostra apprensione mi riempie di gioia, celesti, e mi compiaccio di cuore che questa nostra famiglia mi riconosca per padre e sovrano, mentre constato come anche mio figlio possa contare sul vostro affetto. D'accordo, se lo è meritato con le sue gesta in mani, ma io vi ringrazio lo stesso. E non allarmatevi troppo, miei fedeli, il rogo dell'Eta lascia il tempo che trova. Quelle fiamme, chi ha vinto tutto vincerà pure quelle, e solo per parte di madre farà i conti con la potenza di Vulcano. Quello che ha preso da me è eterno, immutabile, immune da morte, e non c'è fuoco alcuno che possa bruciarlo. Scaduto il suo soggiorno terreno, son qui ad accoglierlo nei cieli e voglio sperare che anche voi siate tutti contenti della cosa. E ove mai dovesse dispiacere a qualcuno che Ercole diventi Dio, si rammarichi pure del premio che noi gli eroghiamo, ma ammetta che lui se lo merita e faccia buon viso. Approvano tutti, perfino la regia consorte parrebbe far buon viso, ma a muso duro accoglie l'ultima frase di Giove, contrariatissima d'esser segnata a dito. Intanto ciò che si prestava a diventare di cenere, Vulcano l'ha incenerito. È impossibile ormai riconoscerlo, Ercole. Tutti i tratti che ha preso dalla sua mamma sono svaniti. Non resta se non lo stampo di Giove. Come un serpente che smette con la sua vecchia pelle la vecchiaia e ringalluzzisce nel brillio delle squame nuove, così l'eroe di Tirinto, spogliate le spoglie mortali, sfolgora al meglio di sé, sembra farsi molto più grande e assumere un che di maestoso e di sacro. L'onnipotente padre così lo rapisce in una nicchia di nuvola e su un tiro di 4 cavalli lo assume fra gli astri fulgenti. Atlante accusa quel carico, ma il figlio di Stenelo, Euristeo, persiste nell'odio cieco per Ercole e sfoga il rancore sulla sua prole. E Alcmena di Argo, afflitta com'è da un lungo strazio, per riversare i suoi sfoghi senili, raccontare le gesta mondiali del figlio e le ansie sue proprie, non ha che Iole. Su istanza di suo padre Ercole, Illo recepita l'aveva nel cuore e nel letto nuziale, e col suo seme magnanimo fecondata l'aveva. Alcmena così le parla: speriamo siano almeno benigni con te gli dèi, e il travaglio ti abbrevino quando tu dovessi invocare la tutrice delle partorienti spaurite, quella lucina che a me l'ha messa giù dura per far contenta Giunone. Nell'imminenza del parto del mio Ercole, destinato a tante fatiche, che il sole stava entrando nel 10° mese, avevo una pancia talmente tesa, pesava talmente, che il fautore di quel fardello nascosto no, non poteva che essere Giove, e io no, non ne potevo più di quelle doglie. A parlarne ancora mi vengono i brividi. Che orrore! Il solo ricordo mi procura un dolore fisico. Dopo 7 notti di strazio e altrettanti giorni di strazio, sfiancata dal male, le braccia al cielo, invocavo urlando Lucina e i 3 dei preposti ai parti. Finché non arriva lei, Lucina, corrotta però in anticipo dalla ingiustissima Giunone e determinata a immolarle la vita, la mia. Appena sente i miei gemiti, si accovaccia sopra l'altare davanti alla porta, accavalla il ginocchio destro al ginocchio sinistro, intreccia le dita a pettine e proroga il parto. Poi, mugugnando a bocca chiusa formule magiche, blocca le doglie espulsive che stavano per cominciarmi. Continuo a spingere e impreco come una pazza contro Giove l'ingrato. Voglio morire, gemo parole da far piangere i sassi. Le madri di Tebe mi assistono, levano preci e fanno di tutto per farmi coraggio. Anche una servetta mi assiste, Galantide, figlia del popolo, bionda di testa, instancabile nel far le faccende. Le voglio bene, per quanto è brava. Intuisce che sta succedendo qualcosa di brutto per colpa di Giunone. Andando su e giù di continuo, si accorge che fuori la porta c'è accovacciata sull'altare una dea con le dita incrociate sopra i ginocchi. E le fa: chiunque tu sia, rallegrati con la padrona. Alcmena ha partorito, esauditi tutti i suoi voti, è mamma. Esterrefatta la dea dei parti sobbalza, scioglie le mani, l'intreccio si scioglie, io partorisco. Presa in giro la diva, Galantide pare abbia riso e ancora rideva quando la dea furiosa la prende per i capelli, la sbatte per terra, lei cerca di alzarsi e quella, inarcatala tutta, le cambia le braccia in zampette. Svelta è rimasta svelta e non ha perso il suo biondo sulla groppa, per quanto la forma sia un'altra, povera donnola. Per aver con la bocca aiutato mentendo una partoriente, partorisce attraverso la bocca e mi gira ancora per casa. Detto, commossa al ricordo della sua servetta d'un tempo, si mette a piangere, e a lei che piange la nuora racconta: «Sì, ma almeno tu, mamma, deplori la metamorfosi di un'estranea, e se ti dicessi lo strabiliante destino di mia sorella, purché non mi facciano lacrime e pena un groppo in gola impedendomi di parlare. Unica figlia di sua madre, mio padre mi ha fatto con un'altra, per la bellezza Driope andava famosa in Ecalia, e così dio di Delfi e di Delo, Apollo la stupra, ed Adremone, contento lui, se la sposa. C'è un laghetto che con le sue sponde acclivi forma un leggero pendio. Giro giro gli fa corona un mirteto. Driope, ignara del brutto destino in agguato, arriva con tanto di ghirlande da offrire alle ninfe. Ma pensa tu l'ingiustizia. In braccio porta il dolcissimo peso d'un bimbo, un piccino d'un anno nemmeno, e lo nutre col tiepido latte del seno. C'è non lontano dal lago una pianta di loto d'acqua che promette bacche e ricorda nei fiori la porpora tiria. Driope ne coglie uno per regalarlo al bambino e farlo felice. Io stessa stavo quasi per fare lo stesso, c'ero anch'io, quando vedo, che vedo? Sgocciolare sangue dai fiori e i rami tremare d'orrore quasi come rabbrividissero. Così è, ce lo hanno spiegato troppo tardi dei contadini. Lì c'era nascosta, mutata di forma ma non di nome, per sottrarsi alle oscene attenzioni di Priapo, Loto, la ninfa. Mia sorella che ne sapeva, atterrita, vorrebbe ritrarsi e lasciar perdere il culto delle sue ninfe adorate, ma i piedi le ha messo in terra a radici, fa per scalzarle e altro non le si muove che la parte di sopra. Di sotto le monta una tenera scorza che pian piano le fascia le cosce. A vederlo si mette le mani nei capelli e strapparseli vuole, ma le mani son piene di foglie che le coprono tutta la testa. E Anfisso, il bambino, suo nonno lo aveva chiamato così, sente che si irrigidiscono i seni della sua mamma e che non arriva più il fiotto del latte per quanto lui succhi. E io sto lì che assisto a questa tragedia e non posso prestarti il minimo aiuto, sorella. Con tutte le forze ti abbraccio, sperando che tronco e rami crescano meno, e vorrei scomparire, confesso, nella tua stessa corteccia. Arriva il marito, Andemone, e disperato suo padre in cerca di Driope, e da loro che cercano Driope non posso indicare che un loto. Coprendo il tiepido legno di baci, loro si aggrappano al tronco di quell'albero loro. Non aveva che il viso che albero non si fosse ridotto, la cara sorella. Le lacrime irrorano foglie spuntate dal povero corpo, e finché ce la fa, finché la bocca consente un varco alla voce, lei sparge per l'aria questo lamento. Se la sventura non rende bugiardi, giuro sul cielo che questa infamia io, punita senza colpa, non me la merito. Non ho fatto mai male a nessuno, mi si secchino e caschino tutte le foglie se mento e col tronco segato ci facciano il fuoco. Ma almeno il bambino toglietelo da questi rami di mamma, datelo a Balia, purché venga spesso a prendere il latte sotto quest'albero e spesso a giocare sotto di me. E appena potrà parlare, ditegli che mi saluti e mormori triste. La mamma sta dentro questa corteccia. Non si fidi mai degli stagni e non colga un fiore da un albero, perché in ogni pianta rischia di nascondersi un corpo di dea. Addio, carissimo sposo, e tu sorella, e tu padre. Se mi volete un po' bene, evitatemi le ferite del falcetto tagliente. Alle foglie evitate morsi di pecora. E siccome non mi è consentito di chinarmi mettetevi voi in punta di piedi, così da venirmi a tiro di bacio finché baciare potrò, e portatemi il bimbo alla bocca. Non posso dire altro. Sento una tenera scorza salirmi su per il candido collo e incastonarmi la testa. Toglietemi via le mani dagli occhi, lasciate che sia la corteccia a velarli per sempre e non la vostra pietà. Così la bocca le smette di parlare e di esistere. Allungo i rami appena spuntati, conservano il caldo del corpo. Mentre Iole, figlia di Eurito, racconta il prodigio, mentre Alcmena le asciuga le lacrime col pollice, piange anche lei, un evento sbalorditivo cancella qualsiasi tristezza. Dritto nel vano dell'uscio, non molto più d'un bambino, si profila, le guance velate da un'indecisa peluria, restituito nei tratti all'adolescenza, Iolao. Regalo di Ebe, figlia di Giunone, quando si arrese alle suppliche di suo marito, determinata però a non fare regali del genere più a nessuno. Temi però la contesta. A Tebe una lite sta degenerando in guerra civile. Un capaneo, nessun altro, potrà piegarlo che Giove. Due fratelli si eguaglieranno, ammazzandosi a vicenda. Un indovino vedrà nella pancia del mondo i suoi morti da vivo. E per vendicare il padre uccidendo la madre, un figlio sarà scelleratamente pietoso. Ma la colpa lo schiaccerà, perderà patria e ragione, braccato dalle Eumenidi e dall'ombra della sua mamma, finché sua moglie non pretenderà da lui il gioiello fatale e il suocero Fegio non gli pianterà in corpo la spada. Allora Calliroe, figlia del fiume Achelo, chiederà a Giove per i suoi figli in culla la giovinezza, che la morte del grande marito invendicata non resti. Commosso Giove dalle preghiere della figliastra, che è anche sua nuora, di due neonati farà due ragazzi. Cantando il futuro, Temis è pronunciata appena che fra i celesti divampa il dibattito. Tema: perché non si possa quel privilegio concederlo a nessun altro? Comincia l'aurora a lagnarsi della vecchiaia crescente del marito, la mite Cerere dei capelli bianchi del suo Iasione. Vulcano reclama per Erittonio il diritto di tornare indietro con gli anni. Preoccupatissima, Venere vorrebbe le si garantisse un Anchise ringiovanito. Ogni dio ce ne ha una, monta il baccano. Chi raccomanda questo, chi quello, finché Giove il grande non alza la voce. Oh, dice, il rispetto per me dove è andato a finire? Sarete mica impazziti? O qualcuno si crede talmente potente da mettere sotto il fato? Se è tornato indietro negli anni, Iolao al fato lo deve. Il fato ha reso ragazzi i figli di Calliroe, non gli intrighi, non la violenza. Voi stessi andate soggetti ai fati, e se questo vi può consolare, anch'io vado soggetto. Potessi appena alterarli, Eaco mio non sarebbe ingobbito dal carico dell'età. Radamanto vivrebbe in perpetuo nel fiore degli anni, così come il nostro Minosse, che nella sua tetra vecchiaia ha perduto qualsiasi prestigio e non regna più col rigore d'un tempo. Le parole di Giove impressionano tutti e nessuno ha la faccia di lagnarsi al pensiero di Eaco e di Radamanto, stremati dagli anni, e di Minosse, il quale, da giovane e forte, terrorizzava nazioni col semplice suono del nome e ora, infiacchito, ha paura di Mileto, figlio di Deione, arrogante di giovinezza ed esser parente di Febo. Convinto, Minosse, che quello con un colpo di stato lo voglia spodestare e non trova il coraggio di spedirlo in esilio, però. Fosti tu a tagliare la corda e su una nave da corsa misurasti le acque del mare Egeo per fondare in Meonia una città che avrebbe, Mileto, preso il tuo nome. E lì, lunghesso le anse delle rive paterne, incontrasti la figlia del fiume Meandro, quello che torna sempre dove era, Cianea, di tutte la più attraente, che poi ti ha dato alla luce una coppia di gemelli, Biblide e Cauno.